Tenía pantalones largos, pero recién estrenados. Tenía, me acuerdo, 14 anni recién cumplidos. Portavo già i pantaloni lunghi, certo, però ero ancora un ragazzino. Avevo 14 anni appena compiuti quando mandai una caricatura a Don Emilio Frugoni, che era il direttore del settimanale socialista che si chiamava Il Sol. E lui me la pubblicò. Pubblicò la prima caricatura, poi la seconda, e da lì ho cominciato. Ho cominciato giocando. Il giornalismo era lì. Io avrei dovuto fare tanta strada ancora, però da quel momento divenni abitante di questa casa magica che è il giornalismo. Siamo nati mica ieri, Capataz. Non siamo nati mica ieri. È la sua prima volta. A soli 14 anni, nella camera di una casa modesta a Montevideo in Uruguay, Eduardo Galeano, quello che diverrà uno tra i più grandi narratori dell'America Latina, scriverà il suo primo testo. È un fumetto politico. Sarà comperato da un giornale socialista uruguascio. Non sa Galeano che da quel giorno la sua vita sarà segnata per sempre.